La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, buon lunedì 21 di novembre alle 16.30 primi e 2 secondi in diretta agli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. La versione di Oscar in diretta o in podcast, vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it e il numero di telefono per intervenire 800 24 00 24 per gli sms 349 238 6666. Come sapete, no? Già vedo qui c'è una batteria di voi che mi mandano gli sms, non dico una parola su stamattina, chi fosse interessato ho scritto una nota molto elementare e molto cortese su quello che è successo stamattina nell'intervista al Premier, non ci torno sopra. E invece l'argomento della puntata, ieri si sono svolte le primarie del centrodestra gollista, l'UMP in Francia, evento clamoroso per tre ordini di ragioni. Primo, hanno partecipato in tantissimi, cioè oltre 4 milioni, tenuto conto che le primarie non sono diffusissime, le ha fatte la sinistra, avevano partecipato 2.7 milioni di elettori, quindi una partecipazione molto più ampia del previsto. Secondo, ha vinto per l'ennesima volta chi doveva perdere nei sondaggi, nel senso che con un vantaggio di oltre 15 punti percentuali, ben oltre il 40%, 44%, ha vinto François Fillon. François Fillon, una lunghissima storia politica alle spalle, per quanto abbia 61 anni non sia un vegliardo, una lunghissima storia politica alle spalle, ministro di Chirac e all'epoca destra sociale gollista, per intenderci, cioè incredibilmente la firma alla legge sulle 35 ore è la sua quando era ministro di Chirac, un rapporto problematico poi con il presidente Chirac, la cosa finì malissimo tra i due e lui disse l'unica cosa che si ricorderà della presidenza Chirac saranno le mie riforme. Dopodiché un tentativo fallito nel post Sarkozy, di cui è stato presidente del Consiglio per anni, di succedere alla guida del comitato di presidenza del partito, e già da allora nel 2013 disse bene, io mi candiderò al presidenziale del 2017. Tutto sommato però nei sondaggi la lotta aperta sembrava tra Alain Juppé e il revenant, cioè Sarkozy che si ripresentava. Invece Sarkozy è stato rottamato, arrivando terzo, erano 7 candidati, Juppé non ha vinto ma è rimasto 15 punti sotto rispetto a François Fillon. Terza cosa, e questo è anche una cosa da considerare, c'è una lezione in tutto questo che non sta solo in questo secondo punto, per l'ennesima volta i sondaggi, rottamiamoli, ma sta invece in una destra gollista europea, un centrodestra insomma, che alle regionali, ricordatevelo, quando il Fronte Nazionale della Le Pen nel primo turno era in vantaggio in molte aree locali, ha fatto convergenza nazionale con i socialisti e quindi alla fine nel doppio turno praticamente il Fronte Nazionale ha portato a casa quasi niente, quindi che rimane solido nel dire no alla Le Pen, alla destra sovranista della Le Pen. E la domanda, e la terza domanda è, primo, c'è una destra in Europa che come si vede sceglie leader con le primarie? Da noi pare proprio di no. Secondo, c'è una destra in Europa che negli stessi giorni in cui la Merkel si ricandida per la quarta volta dicendo contro i populisti, tiene alta l'argine nei confronti di un'alleanza con il Fronte Nazionale, anzi dice risolutamente no. E questo punto è tutto da capire, perché in realtà François Fillon ha delle proposte che nella realtà dei fatti, dall'immigrazione al rapporto con Putin, era il più putinista di tutti i candidati in Francia per la leadership del centrodestra alle primarie, e così via, è una, per così dire, un muro sì alto nei confronti del Fronte Nazionale, ma bisogna anche spiegare a chi non si occupa di cose francesi quanto è alto e quanto non si sovrappone invece l'elettorato del Fronte Nazionale, per tentare di assorbirlo in chiave più moderata. C'è chi scrive, oggi le interpretazioni nella stampa internazionale sono abbastanza difformi, c'è chi ritiene per esempio che Alain Juppé aveva più facoltà e più attirava di più il voto moderato di quanto non faccia Fillon, che ne attira più un voto di destra, E quindi in chiave di convergenza, in parole povere, per beccare i voti dei socialisti che non erano un candidato alla presidenziale e battere la Le Pen, era meglio Juppé. C'è chi dice invece l'esatto contrario, cioè che il vero problema non è tanto quello di pescare voti a sinistra, quanto invece quello di contenere i voti più moderati, che però vedono nella Le Pen la spallata contro un vecchio sistema. Ecco, tutti interrogativi, di cui però ce n'è uno che riguarda in primis anche l'Italia, visto che ci avviciniamo al referendum, che è il fatto che qui da noi si dice senza alternative al governo, di lì le alternative si costruiscono dal basso con il voto. Per tentare di capire però tutti i particolari, che possono seguire solo i competenti tecnici, gli esperti di queste cose, due ospiti abbiamo. Abbiamo Jean-Pierre Darny, direttore del programma di sicurezza e difesa dell'Istituto Affari Internazionale e che insegna anche in Francia all'Università di Nizza. Grazie di essere con noi oggi pomeriggio, Jean-Pierre. Non è ancora collegato. Mi dicono adesso che il telefono probabilmente è ancora staccato. E poi il professore di storia della dottrina politica all'Università degli Studi di Perugia, Alessandro Campi. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Salve Giannino, buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, partiamo per quello che riguarda l'Italia. Da che impressione ha lei del fatto che lì si costruisce un'alternativa di leadership con le primarie? Novità però per il centrodestra. Com'è che il centrodestra francese, con un paese che ha meno esperienza delle primarie da noi inventate nell'Ulivo ormai due decenni fa, si risolve a una cosa simile, e che impressione le fa questo risultato? Ma sul piano del metodo, quindi, è una novità che potrebbe anche costituire, anzi dovrebbe costituire un esempio per l'Italia, evidentemente. Lì parliamo di un partito ben strutturato e ben organizzato, queste non sono primarie di coalizione come dovrebbero essere quelle italiane, organizzarsi all'interno di un partito ovviamente è più facile, però mi sembra che l'indicazione di metodo sia chiara, una leadership bisogna costruirla perché sia efficace in forma conflittuale, cioè, si debbono mettere uno contro l'altro 3, 4, 5 aspiranti, presentarsi dinanzi all'opinione pubblica e agli elettori e lasciare che questi ultimi decidano. È il passaggio che prima o poi credo dovrà fare anche il centrodestra italiano. Finché c'è stato Berlusconi, come si sa, la partita era risolta in partenza, l'uomo aveva caratteristiche e capacità che gli consentivano di tenere tutti insieme e di non doversi sottoporre, tanto era forte, diciamo, il suo carisma, a nessuna consultazione, a nessuna legittimazione al basso. Finita quella storia, vorrei che si capisse che ormai è definitivamente finita e tramontata, bisogna darsi un metodo nuovo, oltre le primarie, tanto più che ci sono diverse ambizioni che si sono affacciate, metodo diverso dalle primarie io francamente non riesco ad immaginarne. Voglio sperare che questo esperimento francese, che peraltro mi sembra andato anche molto bene, la partecipazione è stata molto alta, molto significativa, tra l'altro anche il fatto che ci sia stato un risultato difforme dalle opinioni, dai sondaggi, non conferma soltanto il fatto che questi ultimi valgono poco, conferma soprattutto il fatto che gli elettori debbono poter scegliere, non vedersi calate dall'alto le candidature, soprattutto quando appunto si tratta di individuare un leader capace di tenere insieme una coalizione di forze molto ampia. Venendo al merito, Fillon ha due facce, nel senso che in gioventù e per anni è stato più un destro sociale gollista, per chi conosce la tradizione insomma del gollista destra, significa in altre parole non proprio dei liberisti mercatisti, Stato, imprese di Stato, forte mano dirigista dall'alto, spesa, tasse elevate, eccetera eccetera. Poi da 11-12 anni a questa parte, dal 2005, un cambio di direzione, molto più netta la scelta verso temi di mercato, nelle sue proposte per le primarie, durissimo attacco all'eccesso di dipendenti pubblici, regolamentazione e così via. Contemporaneamente però Fillon è, per così dire, da due seri segnali. Il primo alla Merkel e all'Unione Europea, il secondo alle relazioni internazionali a Putin, perché sull'immigrazione dice chiaro alla Germania, ripeto, nel giorno in cui si ricandida la Merkel per la quarta volta, cari signori, noi sull'immigrazione non vi seguiamo più in queste politiche senza capo né coda, e io vi do l'avviso, se dovessi essere presidente, la Francia è disposta a fare da sola. Rispetto alla centralità che il tema ha, anche rispetto alla ricandidatura della Merkel, che dice io non voglio far vincere i populisti, che approfittano proprio dell'esplosione politica internazionale all'interno della Germania dopo quello che la Merkel disse nell'estate 2015, aprendo a siriani e afghani senza aver trattato precedentemente con nessuno le frontiere. Questo è un avviso fondamentalmente alla Germania. Idem dicasi per quello che riguarda i rapporti Europa-Est e Putin, dove le posizioni di Fillon erano, tra tutti i candidati alle primarie dell'UMP, praticamente più simili a quelli di Trump, fatte le dovute differenze. Insomma, un rapporto diretto da potenza a potenza. L'Europa deve avere un rapporto con la Russia di Putin completamente diverso da quello che ha avuto fino a questo momento, incagliandosi nelle sanzioni per via dell'Ungheria, dell'Ucraina, perdonate, e poi delle incomprensioni per il ruolo giocato dalla Russia in Siria. Che dice di questo inedito mix? Perché i giornali italiani oggi sono un po' confusi. Alcuni scrivono sarebbe un democristiano se fosse in Italia. Io avrei dei dubbi, ma lei che dice, professor Campi? Io francamente leggo questa vittoria abbastanza significativa di Fillon alle primarie in maniera un po' diversa. Io non credo sia stato sono state le sue posizioni in politica economica diventate un po' più liberali rispetto al passato, o in politica internazionale quelle che abbiano convinto gli elettori gollisti di centrodestra a votarlo. L'impressione che abbia pesato moltissimo il fatto che lui sia un cattolico conservatore che ha preso su di sé la difesa di quella tradizione e di quella parte dell'elettorato cattolico. Chiaramente bisognerebbe fare un'indagine un po' più approfondita, ma qualche analista, da quello che vedo, ha già sostenuto un'interpretazione del genere. Lì bisogna mettersi un po' nei panni di cattolici francesi, ricordare per esempio che in quel paese ci sono state delle mobilitazioni popolari molto forti all'epoca, per esempio, del dibattito sulle nozze omosessuali, mobilitazioni che appunto non erano di partito, non riguardavano semplicemente gli elettori di centrodestra, riguardavano i cattolici in senso lato, e sono state portate in piazza centinaia di migliaia di persone in più occasioni. Ricordiamo anche l'impatto molto grande, emotivamente molto forte, che ha avuto l'assassinio di padre Jacques Amer. È una vicenda che è stata trattata come ormai si trattano queste questioni a livello di stampa ufficiale, molto buonismo, molta retorica, l'abbraccio tra i cattolici e i musulmani. In realtà quell'episodio ha fatto molta impressione, e che Fillon si sia proposto come difensore in maniera dichiarata, aperta, contro una certa vocazione, tradizione laicista, che pure è molto forte anche nel centrodestra, secondo me lo ha decisamente favorito. Poi chiaro, ci sono anche altri elementi. Però lei dice è questo, ma io credo che questa è l'aspetto conservatore che parla, insomma, la Francia profonda gollista sulla sua posizione su temi come l'aborto, i diritti dei gay e un no secco al buonismo sull'immigrazione. Allora ci ha raggiunto intanto Jean-Pierre Dany dell'Istituto Affari Internazionali, buon pomeriggio, grazie di essere con noi. Sorpreso anche lei della vittoria di Fillon malgrado i sondaggi, e che chiave politica vede lei, che insomma io poi conosco le sue tradizioni di famiglia, sono anche di una parte della Francia in cui il gollismo ha radici molto molto profonde. Come mai Fillon ha prevalso su Juppé, non solo per l'età, voglio dire, ma rispetto a quello che ha detto nella campagna e per come appare agli elettori moderati? Ha sentito che il professor Campi dice, insomma, probabilmente più della sua virata negli ultimi anni liberista di mercato, o per quello che dice verso Putin nella politica internazionale, e soprattutto per i valori più coerenti rispetto che incarna, e le sue posizioni più nette su temi etici e che riguardano il rapporto con l'Islam. Lei che dice, Dany? Allora, questo è certamente giusto l'analisi del collega Campi da questo punto di vista, però ci sono altri fattori, un mix. Fillon comunque era un candidato nascosto, nessuno aveva previsto la sua vittoria ed è arrivato, come in termini ciclistici, nella volata, trascinato essenzialmente da Sarkozy, direi, dagli attacchi di Sarkozy contro Juppé, contro qualcuno che sarebbe stato troppo moderato. La gente non voleva votare Sarkozy e quindi ha votato Fillon, e quindi questo è un primo motivo tattico che non errorisce l'argomento. Sì. Poi c'è il programma economico, che è molto importante. Io ho sentito vari amici, anche responsabili di piccole aziende, responsabili politici, e quel programma politico più liberista è una vecchia cosa della mondializzazione, insomma, è la Francia, un programma tra l'altro un po' surreale, perché annuncia delle misure che probabilmente bloccherebbero il paese, conoscendo la Francia, quindi è un programma che non verrà mai percorso completamente, però piace, è piaciuto ai piccoli medi imprenditori, a tutto un ceto che comunque si è ritrovato con forza. No, perché per capire i nostri ascoltatori, c'è per esempio una proposta iperliberalizzatrice sul mercato del lavoro, e se uno pensa che la Francia si è bloccata per Macron e Macron si è per quello deciso a candidarsi fuori dai partiti delle presidenziali, auguri a chi ne vuole fare una più coraggiosa, insomma, credo, no? È a questo che si riferiva Daniel. Esattamente, molto improbabile che queste misure, anche le misure sui funzionari pubblici, che sono, non so, non sono percorribili per tutta una serie di motivi. Quindi, però piace, è un effetto d'annuncio, e lì magari c'è un certo, come dire, trumpismo alla francese, nel senso che delle soluzioni, mentre Juppé aveva un'agenda molto più concreta, realista, perché Juppé non raccontava cose che non avrebbe potuto fare e si presentava con un candidato un po' del vero, Fillon invece ha fatto una mini lista del Babbo Natale, un po' più ideologica, e quindi questo candidato ha beneficiato di una campagna nel quale lui era nascosto staticamente, è uscito nella volata, se potete dire, nella scia aerodinamica sia di Juppé, della guerra fra Juppé e Sarkozy, e poi è portatore di una serie di istanze, il suo avvicinamento molto politico e fine ad alcune associazioni cattoliche conservatrice, espressione delle grandi manifestazioni, ad esempio sul diritto della famiglia e via dicendo, e quindi tutte queste cose messe insieme fanno sì che poi Fillon arriva. Fillon è più giovane, ha 61 anni, il che è estremamente relativo, ma è un anno più giovane di Sarkozy e di una decina, se non di più, di Juppé, e comunque la gente non lo conosce benissimo, non si ricorda che insomma è stato un primo ministro di Sarkozy, e tanto Sarkozy è odiato magari per motivi a volte estremamente estetici, quanto Fillon ha il beneficio di una certa di aura di neutralità che non è. Poi è un personaggio con delle sfaccettature strane, ama le macchine da corse, ha una moglie inglese, gallese. Esatto. E il suo fratello ha sposato la sorella gemella della moglie, se ricordo bene, e lui ama passare le vacanze in Toscana, in Puglia, un grande amante dell'Italia che conosce bene, insomma un personaggio che ha dei tratti di, come dire, di una borghesia illuminata della provincia francese del Mont. D'altro canto ha delle posizioni molto sovraniste. No, io allora qua ti interrompo perché c'è un minuto adesso di traffico, però devo chiedere a entrambi, ma Fillon, che ha queste posizioni, è davvero la barriera invalicabile? Sarà netto il suo no contro Le Pen e con più possibilità di vincere perché è più conservatore degli altri, oppure no, perché questo non è molto chiaro leggendo il giornale di oggi, però mi date la risposta tra un minuto. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... la versione di Oscar. Eccoci qua, stiamo parlando della vittoria a sorpresa del primo turno, c'è anche un secondo turno, ma insomma della vittoria a sorpresa del primo turno, sorpresa, grandissima partecipazione da parte di François Fillon per i candidati al presidenziale 2017, non ha vinto Juppé, che era avvantaggiato nei sondaggi, tantomeno Sarkozy, che è finito rottamato. Il doppio turno prevede che tra Fillon e Juppé c'è la rivincita domenica, però tutti a questo punto vedremo se ci sarà una sorpresa. Dicono il vantaggio è tale per Fillon che vincerà lui. La questione che riguarda l'Italia è questa, al di là del fatto che l'Italia le primarie non le segue, ma il no di Fillon e del suo partito a Le Pen in Francia è altrettanto rigoroso di quanto non sia in Germania tra la Merkel che si ricandida e Alternative for Deutschland che l'attacca sugli immigrati. E la domanda ha un chiaro nesso riguardo l'Italia. Berlusconi continua a dire che bisogna stare tutti uniti rispetto all'equivalente dei sovranisti in Francia e Le Pen. L'equivalente, ognuno poi ha la sua storia, però voglio dire, Salvini e Meloni sono molto più duri su no all'euro, no all'Europa, no alle politiche comuni delle immigrazioni e così via. Eppure la scelta di Fillon sembra completamente diversa e contemporaneamente però è fatta di pezzi di sovranismo e insomma di un europeismo molto diverso da quello di Juppé. Quindi c'è una lezione vera per l'Italia oppure no? Cominciamo dal professor Campi. La lezione, cioè, come dire, una storia è completamente diversa. La destra repubblicana francese è sempre, come dire, stata altra cosa dalla destra radicale populista e non ha mai voluto fare accordi, non si è mai voluta confondere con certe posizioni, quindi c'è stata sempre una chiusura molto molto netta. E la storia italiana dice con Le Pen padre, per capirci, ecco. Con Le Pen padre, ma con tutto quello anche che c'era stato prima, anche se erano piccolissime formazioni. Poi diciamo, da quando il Fronte Nazionale è comparso sulla scena ed è andato crescendo, la destra, diciamo, repubblicana gollista non ha mai fatto concessioni politiche, magari ha fatto una cosa diversa di tipo tattico, ne ha sposato qualche tema, anche qualche concessione c'è stata sul tema del linguaggio, pensiamo alla campagna elettorale del Sarkozy, che poi arrivò alla presidenza. Lì il tentativo fu quello di svuotare il Fronte Nazionale facendone proprio alcuni temi, ma guardando all'elettorato, mai immaginando una qualunque ipotesi di collaborazione. Quindi secondo lei l'argine resta molto alto e fermo? Assolutamente, inevitabilmente resterà alto, se è vero che al confronto per l'Eliseo, stando ai sondaggi attuali, arriveranno esattamente Marine Le Pen e probabilmente a questo punto Fillon, a meno che non ci sia così, però, un miracolo, certo, un però, miracolo che riporti in vita i socialisti francesi, ma molto complicato molto attualmente. Ma però a questo punto, con queste posizioni più nettamente conservatrici, Darnis, è più complicato, non più facile per Fillon prendere i voti dei socialisti per battere eventualmente la Le Pen, sì. O no? Sì, da un lato potrebbe essere un filino più complicato da quel lato, ma certamente lui impedisce una fuga dell'elettorato, cioè verso l'estrema destra. Lui, essendo impiccabilmente conservatore, essendo anche deciso e un po' ideologico, tiene nel recinto il malumore dei cattolici e di altri, e qualcuno potrebbe, anche se i partiti sono impermeabili, ma qualcuno avrebbe potuto varcare quella soglia. E quindi quello che magari perde incapacità di consenso al centro, poi è da vedere, perché probabilmente secondo me farà un accordo elettorale con centrodestra, però lo vedremo a breve. Dall'altro però lo guadagna con presidio di una frontiera che anche un Sarkozy avrebbe presidiato bene. Avrebbe però presidiato comunque bene. E quindi la probabilità che Fillon venga poi eletto presidente secondo me è molto alta. Quindi Fillon nei calcoli dei nostri due ospiti meno voti al Fronte Nazionale, anche se gli è più complicato imbarcare più voti dei socialisti. Vedremo, però sta di fatto che in Francia, in Germania, in maniera diverse, c'è un bel pezzo di centrodestra che dice no, noi siamo liberali, anche conservatori, ma non abbiamo a che fare con i sovranisti anti-immigrati. In Italia non si capisce un emerito piffero, se posso dirvelo, tranne il fatto di voler stare tutti insieme senza guardare le differenze. Vedremo gli sviluppi. Intanto grazie a Campi e a Darnì. Controllo solo 24, appuntamento alla domani mattina alle 8:20 con me, Alessandro Minella, attenti alle 2.